entrare in questa stanza, lo sai. Prova a farlo se lo vuoi, lascia andare ogni tuo problema e speranza, qua troverai. Sentiti libero da questa noia che va. Sembra una camera a gas, lasciami uscire il pass. Vendere aria è un business, vorrei portare come graffi il livello zero stress. Yes, yes, yo. E questo è il mio comandamento, e la mia religione sta sicuro che non smetto. Ti porto dentro ad un movimento che volente o nolente non ti fa restare spento, e mi trascinerà per sempre, io questo credo. Un'altra soluzione no, che io non la vedo. Voglio sentirmi libero di urlare, dire, di pensare. Dove respiro e pop, io lo posso fare. Ma qua ci tagliano i ponti, vengono e fanno affronti, e noi a contare secondi già pronti a scappare da una prigione che abbiamo dentro e andare verso quella meta che ora sta splendendo. Sentiti libero da questa noia.